falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. In tutti i campi della vita c'è qualcuno che arriva sulla scena, segna un prima e un dopo, qualcuno che entra in campo, che cambia le regole, che rivoluziona la storia. Pensate, non so, al salto in alto, Dick Fosbury, che salta con la schiena mentre tutti per decenni avevano saltato a pancia in giù. Oppure nella musica, Bach, Jimi Hendrix. Ci sono delle persone che segnano un passaggio nel rock new wave italiano. Conosco qualcuno che ha segnato un passaggio, ma lo dico con molta ironia. Ma la storia che voglio raccontarvi oggi riguarda un campione che è entrato in uno sport che fino a quel momento era stato fatto da persone educate, tutte vestite in bianco candido, eleganti, campioni di fair play, dove regnava il silenzio, dove la parola dell'arbitro era legge, dove nel dubbio il punto si concedeva all'avversario. E poi è arrivato lui. I'm going with the call. You cannot tell me that. You cannot tell me that you only see half of what's going on out here. Can't tell me that. You're a one-eyed umpire today, Rich. Oh, wake up on the other eye. Questa non è una lite fuori da una discoteca alle 3 di notte, è un atleta che sul campo da tennis sta litigando. È il nostro protagonista, Jimmy Connors, ricordato per il suo gioco, per i suoi record, per i tantissimi tornei vinti, ma è uno che rimarrà nella storia anche e soprattutto perché ha sdoganato la maleducazione nel tennis. In campo è stato un vero combattente, una macchina da competizione con una carica agonistica incredibile, e nella sua carriera peraltro ha vinto tantissimo, e lo vedremo, ha stabilito dei record che sono ancora imbattuti, ha dato vita peraltro a rivalità epiche che sono un po' il sale di tutti gli sport, grandi rivalità con degli scontri con Bjorn Borg, con Ivan Lendl e con un altro grande scorretto che arriverà poco dopo, John McEnroe. Oggi sono amici, però in campo sono arrivati letteralmente alle mani. Ma stiamo comunque parlando di sport, non possiamo non partire dai numeri. Jimmy Connors è stato in vetta al ranking mondiale in due periodi, prima negli anni 70 e poi di nuovo negli anni 80. Ha vinto 8 tornei del Grande Slam in singolare, 7 volte è arrivato in finale perdendo. Ancora oggi è il tennista che ha conquistato più trofei nel singolare maschile nell'era Open, 109. Però ridurre Jimmy Connors, detto Jimbo, ai numeri significherebbe comunque non rendergli gli onori che merita, perché lui è stato soprattutto un rivoluzionario, un giocatore che è arrivato in vetta non solo grazie alle sue doti tecniche, peraltro in quel momento c'erano grandi tennisti suoi pari, però è arrivato in vetta soprattutto per merito della sua incredibile spinta competitiva, con il cuore più che con le gambe. James Scott Connors, detto Jimmy, nasce il 2 settembre del 52 a East St. Louis in Illinois. È una famiglia dove le redini le tengono le donne, la madre Gloria e nonna Berta, lui la chiama mamma 2. Con il padre Jimmy ha rapporti difficili fin da quando era ragazzo, e negli anni questi rapporti sono diventati proprio indifferenza e disprezzo. Invece Gloria, la madre, una tennista di un certo livello, gli mette una racchetta in mano quando lui non ha ancora 4 anni. È la tipica madre chioccia, un po' americana, determinata a fare di Jimmy l'uomo forte e combattivo che lei ha già in mente. Insomma, fin da quando lui è piccolo lo isola e lo plasma, si pone verso di lui come unico riferimento al mondo. Prima di tutto sul campo da tennis, perché passa a Jimmy la passione per questo sport. Lui gioca continuamente tutte le volte che può, e Gloria gli fa costruire un campo dietro casa per permettergli di allenarsi con lei, e non gli insegna solo come colpire le palline, gli ripete che nella vita bisogna essere predatori e mai vittime. Insomma, una madre particolare che farebbe la gioia di molti psicanalisti. Però lei intanto coltiva nel figlio questo atteggiamento di ostilità verso tutto e verso tutti, come se ogni passo della vita fosse da vivere come una battaglia da vincere sempre con ogni mezzo, anche con qualche scorrettezza. Connors ricorda così il rapporto con la madre e con la nonna. They gave me the game, which was the most important thing. Sono state molto importanti per tante ragioni. Si sono occupate di me e se oggi sono quel che sono lo devo a loro, in un modo che non so nemmeno spiegare. Mia madre è stata il mio allenatore e il mio amico allo stesso tempo, riuscendo a farmi cambiare e a mettermi sulla strada del successo. Mi ha dato sempre credito. Io davvero non capivo quello che accadeva a quel tempo, ma lei, assieme a mia nonna, ha trovato il modo di trasmettermi la passione per il tennis. È così che probabilmente ho finito per amare questo gioco. Insomma, ai posteri la sentenza se questa madre gli ha fatto più del male o più del bene. Fatto sta che lui comunque la ringrazia, cioè è contento di aver avuto questo tipo di madre. E a 8 anni il piccolo Jimmy è già in campo per il suo primo torneo, un under 11. La madre capisce che il talento è evidente, la grinta ovviamente pure, e lo affida a un professionista che si chiama Pancho Segura. Però non molla il figlio, anzi gli sta addosso più di prima. Gloria lo allena con la stessa grinta che vuol far crescere in Jimmy. Lo racconta Ken Fletch, che è un giocatore di doppio che da ragazzo aveva preso lezioni da Gloria. Ricordo che si sedeva sulla linea di fondo e mi guardava giocare contro il fratello di Jimmy, Johnny. Mi abbaiava ordini e indicazioni di continuo. Era lei stessa un'ottima giocatrice, molto grintosa, molto competitiva. Quando Jimbo ha 16 anni batte per la prima volta la madre Gloria, lui si scusa e lei risponde: è il più bel giorno della mia vita. Il debutto a alto livello, anche se da dilettante, è datato 1970. Si fa conoscere sulla scena tennistica, impressiona il pubblico, gli addetti ai lavori, gioca ottime partite. In una di queste, nel torneo del Pacific Southwest Open di Los Angeles, batte un grande tennista che è a fine carriera, ma è sempre un grande, si chiama Roy Emerson. È uno che ha vinto 12 titoli del Grand Slam, per capirci. Per Connors sono i primi passi, i primi incontri che contano. È poco più di un ragazzo, ma il salto nel professionismo è alle porte. Il falco e il gabbiano. Siamo all'inizio della carriera di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, che in quel momento sta anche frequentando l'Università della California, partecipando ai suoi primi tornei importanti. Stiamo parlando di Jimmy Connors, con il suo gioco, grinta, colpi da fondo campo. È un gioco che sta migliorando di giorno in giorno. Arrivano le prime vittorie. Nel 71 vince il titolo NCAA, quello del circuito universitario americano. Arriva in finale nei tornei a Columbus e a Los Angeles. Ha dei buoni colpi, in particolare il rovescio e la risposta al servizio. Colpisce la pallina rapidamente, la aggredisce e ha risposte che tornano in un attimo nel campo avversario. La sua arma vincente è quella, e soprattutto però è la grinta, la voglia di vincere, l'agonismo, diciamo il cuore. Posso parlare di questo tutto il giorno. Questo è davvero il mio punto forte, è tutto per me. Ognuno gioca come meglio crede, ma al di là di questo è il desiderio che hai, il tuo cuore, il tuo stato mentale che ti fa arrivare al match. Mi piaceva sentire questo, lottare sul campo e mettere tutto me stesso per vincere, senza seguire una particolare direzione. Non mi pesava giocare per 4, 5 o 6 ore tutti i giorni. Non pensavo a nulla se non giocare. Il tennis è sempre venuto prima di qualsiasi cosa. E nel 72 Connors fa il grande salto, a 19 anni lascia l'università ed entra nel circuito professionistico. E cominciano a diventare frequenti le finali nei grandi tornei, così come gli incontri con i tennisti più blasonati del suo periodo. Nell'anno del suo esordio batte tra gli altri Guillermo Vilas e Roscoe Tanner, quello che aveva il servizio più forte del mondo. E anche nel Grande Slam arrivano risultati, a Parigi dove supera il primo turno, a Wimbledon dove sconfigge il nostro Panatta, arriva ai quarti di finale e poi soccombe contro un avversario che negli anni conoscerà molto bene, uno di cui vi abbiamo raccontato la storia, un'altra carogna terribile, Ilie Nastase. Contro di lui perde anche nelle semifinali dei Masters. In campo lui si fa notare, intanto per il suo tennis anomalo, gli altri attaccano andando a rete, lui gioca da fondo campo ma gioca in modo aggressivo, però attira l'attenzione soprattutto il suo atteggiamento e le regole della buona educazione tipiche del tennis a lui non importano, urla, sbraita, contesta le decisioni degli arbitri, quando gli avversari gli danno le spalle lui fa loro dei gestacci, li ride, innervosisce l'avversario. È uno dei primi, peraltro, in un momento di grandi cambiamenti tecnici per il tennis, a passare dalla racchetta di legno a quella di metallo. Imbraccia la sua Wilson T2000 come fosse un'arma e scende in campo per la guerra. E l'establishment tennistico è molto spiazzato da quel ragazzo maleducato e tra l'altro i giocatori della generazione precedente ovviamente lo detestano come molti del pubblico. Ecco cosa diceva di lui un grande del passato di cui abbiamo raccontato la storia, Arthur Ashe. In tutta la sua vita Connors è stato abituato a non fidarsi e a non curarsi di nessuno se non di se stesso. Non ha mai voluto capire la dinamica del gioco di squadra. Giuro che ogni volta che nello spogliatoio incontro Connors, devo sforzarmi per non dargli un pugno in bocca. È l'anno in cui esplode il fenomeno Connors, è il 1973, un anno che conclude al terzo posto della classifica mondiale neonata, perché da quel momento si cominciano a stilare dei punteggi che vanno a classificare quello che sentite ancora oggi, numero 9, numero 8, numero 1 della classifica. Bene, inizia il suo periodo migliore, perché comincia a vincere il primo torneo del Grande Slam nel 74 agli Australian Open e poi si ripete a Wimbledon qualche mese dopo. Il Grande Slam, per chi non lo sapesse, sono i quattro grandi tornei, quelli considerati i quattro più grandi tornei del mondo: il Roland Garros, l'Australian Open, gli US Open, l'America diciamo, e ovviamente Wimbledon. Bene, la sua vittoria agli Australian Open lo farà arrivare d'un balzo in vetta al ranking, quindi è il numero uno. Intanto comincia a giocare dei tornei di doppio e qui c'è un altro problema, perché ci vuole qualcuno di carattere che possa stargli vicino. E chi se non Ilie Nastase, detto la carogna? Sarà una coppiata vincente, ovviamente. E due così non potevano che incontrarsi dalla stessa parte, diciamo, del campo. E poi c'è un'altra coppiata vincente, quella con una ragazza di cui lui si è innamorato, che si chiama Chris Evert. Anche lei è una campionessa in ascesa che scriverà pagine bellissime nella storia del tennis femminile. Ovviamente i giornali dell'epoca si occupano di questa coppia, catturati dall'immagine di due persone giovani, vincenti, è una storia d'amore importante che però finirà proprio quell'anno, nonostante i due avessero già annunciato la data del loro matrimonio. E le ragioni le spiega la stessa Chris Evert in un'intervista. Eravamo troppo giovani, non avrebbe funzionato. Lui era estroverso fuori, ma introverso nel privato. Sua madre gli aveva insegnato a non fidarsi. Ero in un buon periodo. Nel 74 anche io avevo vinto Wimbledon. Volevo essere la numero uno. Gloria preferiva una ragazza che seguisse il marito. Io non potevo farlo. Diciamo che qui l'influenza della madre si fa sentire, non solo quando c'è da vincere i tornei, ecco. Comunque, anni dopo, nella sua autobiografia, Connors darà la sua versione dei fatti, svelerà i dettagli di quella rottura improvvisa, una gravidanza non pianificata, dopo la quale lui vorrebbe tenere il bambino e lei da sola decide, secondo Connors, di abortire. La passione giovanile ci mise davanti a questa scelta e credo che sarebbe stato giusto prendere una decisione assieme, come una vera coppia. Chris ritenne che il momento non fosse quello giusto e che la sua carriera era troppo in ascesa per essere compromessa. Tra il 74 e il 79 Jimmy Connors rimane saldamente al comando della classifica mondiale. Sono anni in cui infilerà decine di vittorie in tornei di alto livello, compresi i quattro famigerati tornei dello Slam. Il suo arrivo sulla scena è il classico passaggio generazionale. Sconfigge tutti i vecchi campioni, se possiamo definire vecchi, campioni di 32-35 anni, ma a sua volta deve incrociare le armi con degli emergenti, con quelli che arrivano immediatamente dopo di lui e la schiera è molto nutrita: Björn Borg, Gerulaitis, Vilas, e poi ci sono anche i nostri campioni, perché è un momento in cui il tennis italiano genera campioni: Panatta e Barazzuti. Proprio con Corrado Barazzuti Connors metterà in scena uno dei suoi siparietti più incredibili, e tra poco ve lo racconto. Il falco e il gabbiano. Vi sto raccontando la storia di Jimmy Connors, uno dei più grandi campioni del tennis di sempre, e ho scelto di raccontarlo non solo per i suoi numeri da record, le partite, i tornei vinti, ho scelto di raccontarlo perché Jimmy Connors non era un tennista come gli altri, aveva una carica agonistica tutta sua, forse era quello che gli ha fatto vincere così tanto, però ha anche rotto regole, schemi che fino a quel momento erano consolidati nel tennis. E uno, e lo dicevo prima, che sdoganato la maleducazione sportiva con tutto quello che poteva accadere quando c'era in campo lui: urla, insulti, sberleffi all'avversario. Era uno per cui ogni singola partita era una guerra da combattere con ogni fibra del suo corpo e della sua mente. Probabilmente dietro a questo, insomma, c'è una madre molto molto particolare, e lui risentiva, insomma, di questa ossessione per la vittoria. A costo di farsi odiare, voleva superare i suoi limiti, ma superava anche i limiti, come nell'episodio con cui abbiamo cominciato il racconto, e riguarda un campione di casa nostra, Barazzuti. Siamo nel 77, sono le semifinali degli US Open, Connors contro Barazzuti, ha vinto i primi due set, ma la partita sta girando, sapete che nel tennis succede, si giocava sulla terra verde, dettaglio importante, Connors è in calo, Barazzuti sta recuperando e c'è un punto cruciale che porterebbe l'italiano sul 5-3 e quindi che probabilmente gli farebbe vincere il terzo set, riaprendo la partita. C'è un rovescio di Connors molto vicino alla linea laterale, Barazzuti si ferma per controllare il segno, si gira verso il giudice di linea, vuole una verifica e non si accorge che Connors sta attraversando il campo, cosa che non si può fare. Arriva sul segno, lo cancella e torna dal suo lato. È un gesto che potrebbe costare la squalifica. L'arbitro di serie, forse irretito da questo comportamento così imprevisto, reagisce come un maestro con il suo alunno discolo. Mr. Connors, your attention please. Mr. Connors, your attention please. Mr. Connors, lei non ha nessun diritto a comportarsi così, neanche per scherzo. Ma la palla è buona ed è deuce. Ora giocate. But the ball was good and it's deuce. Play, play. E quindi ha fregato tutti e si è fatto rimproverare blandamente, ma intanto ha cancellato il segno sull'erba e l'ha avuta vinta. Barazzuti, che è uno dei tre tennisti italiani che sono arrivati nella top ten mondiale, si ricorda bene quel momento e gli abbiamo chiesto un suo ricordo. Io rimasi basito, assolutamente basito, perché non mi sarei mai aspettato una cosa di questo genere. Tra altre cose non l'ho neanche visto arrivare, perché io ero girato di spalle, per cui guardavo, stavo cercando di convincere il giudice di linea ad alzarsi dalla sedia, che poi è stata una cosa strana, perché come regolamento, se tu chiedi il controllo del segno, normalmente viene, controlla, può dire anche su un segno buono o fuori quello che gli pare, dice quello che gli pare, però normalmente il giudice di linea viene a richiesta del giocatore a controllare il segno. Stranamente non si voleva alzare, per cui io sto cercando di convincerlo, poi è arrivato Connors, mi è passato da dietro, mi ha cancellato e se n'è andato, e io sono rimasto basito, senza parole, non potevo crederci. Ecco, considerate che fanno vedere questo episodio spesso a Flash in Minos, viene considerato uno dei 5 errori più gravi della storia del tennis questo. Negli anni 70, che è il decennio migliore di Connors, la sfida che si ripresenta di torneo in torneo è quella con uno svedese dal cuore di ghiaccio, si chiama Björn Borg. È una rivalità fortissima, non solo sportiva, proprio caratteriale, sono due modi diversi di vedere il tennis. Ed è proprio Borg, sarà proprio Borg nel 79 a spodestarlo dalla cima del ranking. I due giocano simili dal punto di vista tecnico, ma con dei caratteri lontanissimi tra loro, lo ricorda lo stesso Connors. Actually it was Giocare contro Bjorn è stato veramente difficile per me. Noi avevamo due personalità completamente differenti. Il mio comportamento era focoso, mentre lui era sempre rilassato. Tant'è che lo chiamavano Iceman. Non mostrava emozioni e per me non era per niente facile capire cosa gli passava per la testa. Ma il tipo di tennis che ha praticato è stato più o meno simile al mio. Entrambi non mollavamo mai e ogni punto lo giocavamo come se stessimo giocando la partita della vita. Ma lui era sempre calmo e io conoscevo questo suo aspetto. Ma sulla scena nel 77 si affaccia un altro giocatore che attira l'attenzione perché ha dei modi aggressivi, folli, ma che ha anche un gioco geniale fatto di finezze, di colpi imprevedibili. Si chiama John McEnroe e con lui Connors darà vita a dei match incredibili per il gioco, per le liti, per le intemperanze. Per esempio c'è una partita di esibizione a Chicago nell'82, i due litigano e come spesso succede Connors scavalca la rete, che è una specie di vizio evidentemente, per lui insulta McEnroe a un millimetro dalla sua faccia e McEnroe lo spinge via, ed era una partita senza nulla in palio. Per vincere usava tutti i modi e con lui gli incontri erano delle lotte. Si serviva di tutte le diavolerie e della sua esperienza per ribattere i miei colpi. Sono stati dei grandi match. È stato interessante, è stato un far west. Tralasciando il suo temperamento, credo che con la sua abilità e il suo carattere abbia dato tanto. I suoi match erano spettacolari per i suoi colpi e i suoi tocchi, per il suo modo di giocare le partite. E saranno proprio i due suoi grandi rivali a metterlo in ombra, perché nei primissimi anni Ottanta l'attenzione si sposta sui confronti tra Borg e McEnroe. Connors perde molte finali proprio per mano dell'uno o dell'altro, diventa l'eterno terzo in classifica fino al improvviso ritiro di Borg nell'82, e allora rimane McEnroe e si scontrerà ancora per molto tempo con lui, ma sulla scena nel frattempo stanno arrivando altri campioni. Connors ha passato i 30 anni e si riprende per dei brevi periodi la prima posizione, ma tra i nuovi protagonisti arrivano altri ovviamente molto forti. Intanto c'è un altro svedese che si chiama Mats Wilander e poi arriva un cecoslovacco, Ivan Lendl, e Connors non ha mai nascosto la sua profonda antipatia verso Lendl, proprio si sfiora la disistima o forse la si supera insieme al disprezzo. In gran parte è diventato il numero uno per abbandono. Guarda, Borg ha lasciato, io sono diventato vecchio e McEnroe gli si è intorpidito il cervello. Qualcuno doveva essere numero uno. Lendl ha saputo aspettare e gli è andata bene. E anche con Lendl, Connors darà vita a una rivalità accesa ma condizionata dalla differenza d'età, perché lui è un tennista che ormai è sulla strada del tramonto, anche se rimarrà ancora attaccato alle alte posizioni proprio con le unghie. E Lendl però è giovane, affamato, e forse Connors non ha mai mandato giù più delle finali che Lendl gli ha strappato. Un gesto del 1980, quando Connors è ancora sulla cresta dell'onda al Master nella fase a gironi, Lendl perde di proposito contro Connors per evitare la semifinale contro Borg, e in quell'occasione Connors reagisce definendo Lendl un vigliacco, e non può essere diversamente per uno come Connors, come il nostro protagonista che vive ogni incontro come una sfida all'ultimo sangue. Lui non avrebbe mai fatto delle strategie per perdere una partita semplicemente per avere poi un tabellone più facile. Comunque il bilancio finale dei match, e l'abbiamo già detto prima, Lendl era in ascesa e Connors iniziava il declino, è ovviamente a favore di Lendl 22-13. Il declino è inevitabile, però lui fa una scelta opposta a quella di Borg, che dopo avere passato tutta una vita a giocare a tennis in maniera maniacale, a 26 anni si ritira, anzi poi si riprenderà anche maldestramente la vita persa in altri territori, anche fuori dai limiti. Connors invece rimane sulla scena, le vittorie ovviamente sono sempre più rare, il suo ultimo exploit è nel 91, anno in cui lui è attorno alla posizione 900 del ranking. È il suo ultimo colpo d'ala, arriva in semifinale agli US Open e anche a Basilea, dove perde con il suo eterno rivale McEnroe. Torna per un attimo al 49esimo posto della classifica, ma ricomincia a scendere, e nel 96 deve arrendersi all'evidenza e al calendario, annuncia il suo ritiro a 44 anni. Insomma, al di là dei numeri da record, al di là delle 1256 partite ufficiali vinte, al di là della sua grande carriera, Connors ha fatto la storia per il suo agonismo esasperato, per il suo tennis aggressivo, per essere sempre stato uno che non mollava mai. A Corrado Barazzutti, suo ex avversario in campo, come abbiamo anche raccontato, abbiamo chiesto un profilo di Connors. Connors era un tornado agonistico, e quando giocava si vedeva quanto, voglio dire, avesse voglia di vincere, quanto era capace di combattere, di soffrire. Cioè, io gli ho visto perdere partite con Borg, che l'ha annichilito, e si vedeva che giocava fino all'ultimo punto, soffriva, però non smetteva mai di combattere. Insomma, è un giocatore che ha dimostrato anche nei momenti in cui un Borg l'ha fatto proprio volare via dal palcoscenico o dal trono di numero uno, e lui perdeva contro questo giocatore, ma con grande dignità. Poi naturalmente effettivamente passava il limite, non rimaneva simpatico e spesso, diciamo, superava la linea proprio della buona educazione, ecco. Però insomma, certamente sotto il punto di vista, insomma, del giocatore, un giocatore che insomma ha lasciato un segno. Eh sì, sicuramente Connors è figlio di un tennis del passato delle racchette di legno. Diciamo che è stato uno degli artefici del passaggio del tennis da sport aristocratico di signori a sport di massa. Peraltro lui è stato il primo a passare ai materiali più moderni, ha cambiato proprio velocità al tennis. Però un confronto con i campioni di oggi, anche se è improponibile per mille ragioni, come sempre, però vogliamo, per giocare, vogliamo provare a farlo ugualmente, e sentiamo proprio Barazzutti cosa ne pensa. Parto dal presupposto che quando si tratta di grandi campioni come Connors, come Federer, con i loro stili diversi, con i loro tempi diversi, beh, insomma, sarebbe bello vederli giocare uno contro l'altro. È il sogno di tutti, insomma, voglio dire, vedere magari un Gigi Riva che gioca ai tempi nostri. Cosa avrebbe fatto Gigi Riva? Chi lo sa? E secondo il mio punto di vista, vale anche per i campioni di tennis, ma vale per tutti i campioni dello sport. Tutti si dice, ma voi giocavate con le racchette di legno? Sì, è vero, però se quei giocatori giocassero con queste racchette di adesso, come giocherebbero? Meglio o peggio? Sarebbero molto più forti, forse, se queste racchette danno tutti questi vantaggi, chi lo sa? Per cui è, come dire, è una bellissima chiacchiera, voglio dire, che fa discutere e che fa divertire la gente. Abbiamo raccontato una storia piena di colpi d'ala, ma colpi d'ala costruiti con volontà, con cattiveria agonistica, e i colpi d'ala di un uomo che ha cambiato la storia di uno sport assieme ad altri, e quindi che in qualche modo ha introdotto il tennis al mondo del grande spettacolo, e quindi che ha fatto molto bene al tennis. E ci sono belle storie di persone che hanno avuto cadute e risalite, e con Connors ha sempre combattuto palmo a palmo per la sua vita, forse perché spinto da una madre particolare, ma la sua grinta noi ce la ricorderemo sempre. E se volete mandare dei commenti o segnalare altre storie su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina o venite a trovarmi sui miei e sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.